Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Quite a pair of conversationists, aren't you? Maybe not. We're deep thinkers. Stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ify, Dolby, Botox, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP, t'es trop VIP. Human journey. say. How have we gotten to wherever we are today? Weather from space, weather from gym. All excuses are looking quite lame. Cause whatever direction you may turn, you'll see, my friend, the earth's been poisoned by the human germ. Whatever direction you may turn, you'll see, my friend, the earth's been poisoned by the human Era il 2001, erano le playlist di quell'anno, le playlist di Eclettica che andiamo a riscoprire una alla settimana grazie a Profumo di Eclettica. Snog the Human Germ era il brano che ci siamo appena ascoltati per appunto questo combo australiano dal nome Snog, che in Italia arrivò anche grazie, e lì io lo scoprì, alla colonna sonora di un film, e morì con un falafel in mano. E come sapete, a volte mi capita di scoprire brani che poi rendo vostri grazie appunto a film, come è successo settimana scorsa sia con Nina Simone che anche con la colonna sonora di Short Bus. E penso che questa, con quel brano così incredibile che parte lirico e finisce sgangherato, anche questa settimana quel brano ritornerà. Comunque ritorniamo a quanto ci siamo appena ascoltati. A proposito di Snog e della sua presenza con The Human Germ all'interno delle playlist di Eclettica, ho anche un ricordo di uno dei tanti mail che arrivano da anni a giulio@rockfm.com, in cui mi si diceva basta per favore. È bellissima, ma la stai trasmettendo troppo questa canzone. Eh sì, ho questo ricordo. No, non è successo spesso, ma con Snog è successo. Invece in apertura un disco veramente molto piacevole che arriva dalla Germania come etichetta discografica, la Bungalow, la stessa di Namosh, che tanto ci siamo ascoltati a cavallo fra la vecchia e la nuova stagione di Eclettica. Ma lui è francese, si chiama Catherine, questo è già il suo settimo disco, ma è con questo brano che secondo me ha colto nel segno, 100% VIP, che passerà anche come pillola in questa settimana. Ed ora uno di quei brani che sembra, dalle prime classifiche che mi stanno arrivando all'indirizzo giulio@rockfm.com o che vengono pubblicate sulle pagine di MySpace, mi sembra uno di quelli più gettonati, e se va avanti così si ritroverà poi nella trasmissione in cui facciamo il consuntivo del 2006. È un album relativamente recente, anche questo arriva dalla Germania, però non solo come etichetta la More Music, ma anche come band, i Contriva, album dal titolo Separate Chambers, dal quale ci ascoltiamo I Can Wait. Answer. pomeriggio d'aprile, subito dopo pranzo, mio marito mi annunciò che voleva lasciarmi. Lo fece mentre sparecchiavo la tavola, i bambini litigavano come al solito nell'altra stanza e il cane sognava brontolando accanto al termosifone. Mi disse che era confuso, stava vivendo brutti momenti di stanchezza, di insoddisfazione, forse di viltà. Parlò a lungo dei nostri 15 anni di matrimonio, dei figli, e ammise che non aveva nulla da rimproverare né a loro né a me. Tenne un atteggiamento composto, come sempre, a parte un gesto eccessivo della mano destra quando mi spiegò con una voce infantile che voci lievi, una specie di sussurro, lo stavano spingendo altrove. Poi si assunse la colpa di tutto quello che stava accadendo e si chiuse con cautela la porta di casa alle spalle, lasciandomi impietrita accanto al lavandino. Questo era l'incipit dei Giorni dell'abbandono di Elena Ferrante. Can't be found. siamo solo a dicembre, visto che la stagione comincia a fine estate, direi che di stagione ne manca ancora tanta, ma sicuramente uno dei nomi che verranno ricordati, un fregio, una medaglia di quelle che si appuntano sul petto di Eclettica ogni anno, dei nomi nuovi che vengono associati ad ogni stagione come un ricordo indelebile, ci sarà quello degli I Like Trains, al loro esordio e in Eclettica tanto trasmessi, tanto spinti, tanto ascoltati, tanto amati. I Like Trains, mi sono lasciato andare come ogni tanto mi succede, con Progress Reform, un album che ci stiamo ascoltando da mesi e che mai ci stanca. Io avevo voglia di ritornare ad ascoltare Terra Nova e così, mi spiace, ma ve la siete ascoltata anche voi. Giulio Caperdoni che prosegue nella trasmissione andando a riprendere un album che è passato parecchi mesi fa, però con un altro pezzo più volte nelle playlist di Eclettica. Visto che la Domino ha deciso di farne uscire un nuovo singolo, sono andato a riprenderlo. Sto parlando di Visitations da parte della band di Liverpool di nome Clinic e il singolo in questione si intitola If You Could Read Your Mind. Eclettica, fine della seconda parte.